Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Atene. È una solata giornata estiva del V secolo a.C. È il momento d'oro della democrazia ateniese, dove nascono i canoni politici e di pensiero che hanno dettato la strada alla civiltà occidentale. I cittadini sono riuniti in assemblea, le voci si alzano. Sono quelle delle discussioni animate in cui si parla delle decisioni da prendere insieme per il bene della città. In una casa, distante qualche centinaio di metri, un uomo, che ha nelle orecchie il vociare lontano dei suoi concittadini, sta scrivendo. Aristofone, il maestro riconosciuto della commedia, considera l'uomo che stiamo spiando come un rozzo portatore di nuovi costumi e lo ha dileggiato nell'opera Le rane. Il nome di questa persona è Euripide e in realtà è dotato di straordinaria cultura e ha ricevuto un'educazione estremamente raffinata alla scuola del sofista Protagora. Tra le diverse parole che Euripide tratteggia nella tragedia che sta scrivendo, ce n'è una che va osservata con attenzione. Forse è la prima volta che viene scritta. Sicuramente è la prima volta che noi posteri ne abbiamo testimonianza. Questa parola è parresia. La parresia è un termine che incarna appieno lo spirito della democrazia. Significa dire la verità, parlare con assoluta franchezza. Il cittadino ateniese che interviene nelle assemblee pubbliche ha il diritto di dire ciò che ritiene giusto e vero. Praticare la parresia significa esprimere la propria opinione anche nel caso in cui essa sia radicalmente contraria alla situazione politica. Assieme alla libertà, svolge un ruolo determinante il dovere. Il vero parresiastes, colui che pratica la parresia, sente come un dovere morale l'esporsi al giudizio o addirittura al rischio della libertà. La parresia, quindi, fonda l'atteggiamento critico del soggetto occidentale. È la base di qualsiasi opposizione al potere in carica. È dunque da queste 8 lettere che comincia la pratica della verità. È su questa base che nel corso dei secoli si sono organizzate le comunità di resistenza ai soprusi dei governanti. Lo storico e filosofo francese Michel Foucault la descrive così. La parresia è quella qualità morale che è richiesta, in fondo, a ogni soggetto che parla. Egli parla liberamente, dice ciò che pensa, non fa a meno di esprimere le critiche più severe al governo politico. La comunicazione parresiastica crea quell'eccezionale apertura che fa sì che si dica e che si dica quel che si ha da dire, che si dica quel che si ha voglia di dire, che si dica quel che si pensa di dover dire, sia perché è necessario, sia perché è utile, sia infine perché è vero. Dopo 25 secoli dalla sua prima comparsa, la possibilità e la libertà di esprimere le proprie idee sono fortunatamente ancora delle esigenze imprescindibili per la nostra società. La parresia vive nelle parole della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, come cita l'articolo 19. Riconoscere ad ogni individuo il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Anche la nostra Costituzione, sempre nel 48, ha sancito con l'articolo 21 la medesima cosa. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ma veniamo a noi. Dopo essere stati nell'Atene del V secolo a.C. e aver visto cosa significhi parresia, voliamo nello spazio e nel tempo e approdiamo a New York nel 2007. È una mattina di settembre. Una macchina con i vetri oscurati scorre dentro il traffico di Manhattan. Alla guida c'è un agente dell'FBI. Nella sua vita di poliziotto si è sempre occupato di mafia e di traffici internazionali di droga. Con il tempo si è abituato a guidare guardando non soltanto la strada, ma anche tutto quello che succede intorno. Ha spesso scortato scomodi testimoni e sa che ogni minuto può essere buono per subire un'imboscata. Al suo fianco c'è un collega con cui è abituato a condividere quella tensione giornaliera che ormai fa parte della loro vita. Sul sedile dietro è seduto invece un ragazzo di 28 anni. Anche lui si sta adattando ad avere paura quasi tutti i giorni della sua vita. È italiano e si chiama Roberto Saviano. Roberto Saviano. Roberto è a New York per partecipare a un festival internazionale di letteratura, il Pen World Voices. La macchina dell'FBI si ferma davanti a un'abitazione privata dove si sta svolgendo un piccolo simposio tra scrittori americani e stranieri. Gli agenti scendono dall'auto, si guardano intorno. Roberto aspetta. Sono altri a decidere per lui, come quando si è bambini o si diventa troppo vecchi. Finalmente aprono la sua portiera e lo invitano a entrare velocemente nella casa in cui è stato invitato. Saviano indossa un girocollo blu, dei jeans e delle scarpe da tennis, come un qualsiasi ragazzo della sua età. La casa è piena di gente. Gli agenti dell'FBI discretamente sembrano scomparsi, ma in realtà sono presenti e vigili. Roberto incontra Valentina Castellani, una gallerista italiana trapiantata a New York. I due cominciano a chiacchierare, finché Valentina a un certo punto indica a Roberto un uomo. Indossa una giacca scura sopra un golf grigio. Ha il sorriso pacifico, degli occhi stretti stretti come di un uomo perennemente concentrato. Roberto gli va incontro, si presenta. Subito tra loro comincia un fitto discorso. I due si appartano in un angolo, come se dovessero parlare di qualcosa di intimo. L'interlocutore di Roberto è lo scrittore indio-britannico Salman Rushdie. Salman Rushdie. How can I change the life? I due scrittori condividono una condanna a morte che pende sopra le loro teste. Le loro vite e le loro esperienze sono diversissime, ma profondamente unite da questa tragedia personale. Nei loro romanzi hanno scritto e hanno detto quello che pensavano, hanno esercitato la loro parresia, il loro diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, e ora ne subiscono le drammatiche e ingiuste conseguenze. Rushdie ha subito nel 1988 una fatwa dopo aver scritto i versi satanici. Per anni ha vissuto sotto una scorta perenne, nascondendosi. In quell'incontro nel salotto a New York, possiamo immaginare come Saviano si sente. Come la persona che porta dentro di sé una terribile malattia e incontra qualcuno che è affetto da tempo dello stesso male, ma riesce comunque a vivere. Le parole di Rushdie, i racconti della sua esperienza, servono a Roberto. Sono preziosi per aiutarlo a convivere con la propria prigionia. Quando il mese scorso ha ricevuto la laurea honoris causa a Genova, Roberto Saviano ha speso queste parole. Mi è capitato, sempre per questa mia strana vita, di iniziare a cercare di capire le persone, che, i poeti, gli scrittori, i registi, che avevano pagato con la loro vita e il loro racconto, e farle diventare per me una sorta di riferimento, come per un navigatore che ha bisogno delle stelle per procedere. Io ho cercato in loro la possibilità di trovare una traccia, un percorso, un insegnamento. Sì, ho avuto la fortuna di poter incontrare Salman Rushdie, che mi ha, come dire, in qualche modo anche spinto a liberarmi dalla cappa spesso terribile che ha chiunque vive, e siamo tanti, la mia situazione. Già, quante sono le persone nella situazione di Salman e Roberto? Il loro numero è altissimo. Sono uomini e donne che hanno vite e passati diversi, ma che ora si devono nascondere dalla morte. Qualcuno ci è riuscito, qualcuno no. Sono persone che hanno raccontato storie, in alcuni casi anche solo storie di fantasia, che però davano fastidio a qualcuno. Altri invece hanno fatto da cassa di risonanza alla realtà. Il comune ha avuto la bellezza di 22 miliardi di lire per la ricostruzione. Eppure sono 5 anni che i lavori come cominciano si fermano. Chi ha vinto le gare sta in villa. I terremotati nei container. Non è strano, signor sindaco? Siete corrotti! Qua ogni mossa va pesata. E ormai se ne secondo noi dove siamo. Questo è Forte Apache. Ma chi è sto giornale? Sto giornale è un c***o. Che ci dobbiamo fare? Una tirata d'orecchio. Ma qua tirata d'orecchio. Questo che avete appena sentito è il trailer del film Fort Apache di Marco Risi. Narra la vera storia di Giancarlo Siani, un giornalista ucciso dalla camorra quando aveva appena compiuto 26 anni. La sua condanna viene decisa sulla base delle parole che Giancarlo scrive in un articolo del 10 giugno del 1985 per Il Mattino di Napoli. Siani svela che l'arresto del camorrista di Torre Annunziata, Valentino Gionta, è avvenuto per un tradimento del clan Nuvoletta, che l'ha regalato alla polizia per toglierlo di mezzo. Angelo Nuvoletta, il boss del clan, decide che gambizzare Giancarlo è troppo poco. La sera del 23 settembre del 1985 Giancarlo torna a casa. Sarebbe dovuto andare a vedere il concerto di Vasco Rossi, ma non ha trovato i biglietti. Sotto la sua abitazione lo aspettano due killer. Siani è un giovane, ha praticamente la stessa età di Saviano quando ha scritto Gomorra. È in un'età in cui non puoi non fare quello che ritieni giusto. Vini Volpi e Goffredo Buccini, due suoi colleghi dell'epoca, lo ricordano in questo modo. Giancarlo era un collega di 26 anni che è rimasto vittima della sua eccessiva bravura perché ha voluto scavare in un terreno, in un territorio minato. È la giovinezza, era l'idea di fare questo lavoro, di farlo per cambiare la società, per cambiare le cose, per tutte le ragioni più ingenue e stupide per cui si pensa di fare questo lavoro a 20 anni, quindi le migliori fondamentalmente. Napoli è voce di creatura che sai e chiama, e tu sai che non si sola. Giancarlo Siani non si aspetta di morire. Non si sente così drammaticamente in pericolo. Neanche Saviano avrebbe mai sospettato che Gomorra l'avrebbe reso un obiettivo così strategico per la camorra. Ma torniamo in quella casa di New York dove Roberto sta parlando con Rushdie, che gli fa mille domande per cercare di capire meglio la sua situazione. A una di queste Saviano risponde che tutto è successo molto in fretta, come una pala di neve che scivolando giù da una montagna diventa una valanga. Ha ricordato di come all'inizio Gomorra fosse rimasto confinato a Napoli e alla sua realtà locale e di come i camorristi non ne fossero spaventati. Allora gli andava anche bene, anzi si regalavano il libro tra di loro, contenti che si raccontassero le loro gesta. Avevano perfino cominciato a farne delle copie taroccate da vendere per la strada e un boss aveva rimesso le mani in un capitolo riscrivendo alcune parti che lo riguardavano. Rushdie ascolta e a quel racconto fa un sorriso amaro. Gli viene in mente un episodio accaduto al giornalista indiano Suketu Mehta. La prima volta che è tornato a Mumbai dopo aver scritto Maximum City è stato chiamato dai gangster mafiosi di cui parla nel libro. Volevano lamentarsi con lui perché gli aveva cambiato i nomi, mentre ai poliziotti aveva lasciato quelli originali. Insomma, volevano apparire ed erano dispiaciuti di non poter essere facilmente identificati. Appoggiati a una parete, mentre la gente attraversa le stanze e i corridoi della casa newyorkese, Salman e Roberto diventano sempre più intimi. Saviano racconta di come si sia cominciato a parlare del suo libro e come questo abbia cominciato a disturbare il clan dei casalesi. Perché fino ad allora non finivano mai sulla prima pagina dei giornali, neppure quando facevano massacri. Poi Gomorra ha risvegliato l'attenzione in tutta Italia e questo successo non gli è stato perdonato. Salman rivede nelle parole di questo ragazzo quello che è successo a lui. Parla a lungo Salman e alterna consigli profondi ad altri che alleggeriscono la tensione. Una volta a New York fu davvero simpatico, Rushdie mi disse: mi raccomando, liberati nella testa. Lui è stato 7 anni sotto protezione per la fatwa iraniana e lui mi disse: io ho trovato due cose per liberarmi, party and girl, disse lui, no? La fatwa di Rushdie viene proclamata per radio dall'Ayatollah Khomeini, che accusa lo scrittore per il suo romanzo I versi satanici, una storia fantastica ma chiaramente allusiva nei confronti della figura di Maometto, che viene giudicata non di meno blasfema. Gli eventi che si susseguono da allora sono a dir poco agghiaccianti. Nel 1991 il traduttore giapponese di Rushdie, Hitoshi Igarashi, è pugnalato a morte, mentre quello italiano viene malmenato e pugnalato a Milano. Nel 1993, William Nygaard, l'editore norvegese di Rushdie, viene gravemente ferito a colpi di arma da fuoco nel corso di un attentato davanti alla sua casa di Oslo. Ma le cose si ammantano di uno strano mistero col tempo. Nel 1998, come precondizione per avviare relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna, l'Iran dichiara che non sta più perseguendo la morte di Rushdie. I più intransigenti in Iran hanno però continuato a confermarla e all'inizio del 2005 l'Ayatollah Ali Khamenei, leader spirituale dell'Iran, l'ha anche ribadita in occasione di un pellegrinaggio alla Mecca. Inoltre i Pasdaran hanno dichiarato che la condanna a morte è ancora valida. L'Iran, dal canto suo, ha ignorato ogni richiesta di ritiro della fatwa perché solo chi l'ha emessa può ritirarla. Insomma, Rushdie si trova ancora oggi in una sorta di terra di nessuno, in cui non è dato di sapere se qualcuno nel mondo sta ancora progettando di ammazzarlo. Salman Rushdie non ha mai avuto ripensamenti per avere scritto i versi satanici. In un'intervista al Times ha spiegato il proprio punto di vista sulla questione. Siamo padroni o vittime del nostro destino? Facciamo la storia o è la storia a farci? Modelliamo il mondo o ne siamo solo modellati? Chiedersi se siamo noi ad agire sulle nostre esistenze o se siamo semplicemente delle vittime passive degli eventi è un grande interrogativo che lo scrittore indio-britannico ha sempre cercato di porsi. Non essersi pentito di avere scritto i versi satanici non vuole però dire che non abbia pensato mille e mille volte alla propria situazione. Ha dovuto però abituarsi alla paura. Quella che per noi persone normali è una sensazione saltuaria, per lui era permanente. C'è da impazzirci se non si riesce a reagire in qualche modo. Anche se ora Rushdie sembra fuori pericolo, in realtà nessuno può garantirgli che non gli succederà mai nulla. Ho cambiato il punto di vista dentro me stesso, perché nessuno ti dirà mai ok, ora non c'è più pericolo, nessuno te lo può garantire. Alla fine sei tu che devi prendere la decisione per la tua vita. E quando questo succede, o almeno è successo a me, è stato importante il guardare sempre avanti e mai indietro. Ci devi provare almeno. Queste e altre cose ha raccontato Salman a Roberto in quel pomeriggio newyorkese. Sono state parole preziose che rimangono nell'aria, non soltanto come uno scambio a due. Sono parole importanti, perché portano con loro la voglia di reagire di fronte agli sbagli del mondo. Rushdie, in quella discussione, ha sottolineato come non siano tempi buoni per la libertà d'espressione dappertutto e non solo nei paesi autoritari. Anche nel nostro mondo cosiddetto libero si sta sostituendo al termine rispetto l'espressione essere d'accordo. Se non sei d'accordo, non sei rispettoso. E questo, francamente, è inaccettabile. Non c'è più rispetto, neanche tra di noi. Il silenzio è rotto dagli spari tuoi. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo raccontando la storia e l'incontro tra Salman Rushdie e Roberto Saviano. I due si incontrano nel 2007 a New York, in un bel pomeriggio settembrino. La loro fitta conversazione verte inevitabilmente sul dramma che entrambi sono costretti a vivere, sulle condanne a morte che pendono sulle loro teste. Rushdie, come uno zio saggio, racconta a Roberto delle sue esperienze di prigioniero della paura e spiega come crearsi, per quanto è possibile, degli anticorpi. Spiega al giovane scrittore che per quanto possa sentirsi sconfitto, alla fine vincerà lui, perché la verità vince sempre. La letteratura non è una cosa di oggi, ma come diceva Italo Calvino, è una cosa di tempi lunghi e su quelli si misurano le cose della vita. Ed è questa onda lunga, questo potere delle parole che si ingrandisce più passa il tempo, che mette paura ai poteri distorti e totalitari. Basta guardare con quanta attenzione i regimi hanno sempre controllato gli scrittori. Ricordo i volti degli ascoltatori, l'espressione dei loro occhi e una nettissima sensazione. La voglia di saltar su, di lanciarsi verso chissà dove, di raggiungere qualcosa. Quello che avete appena ascoltato è il ricordo di Elena Bulgakova che racconta le reazioni avute dai pochi privilegiati che hanno sentito leggere da Bulgakov il racconto Il maestro e Margherita. È l'estate del 39. Lo scrittore ha appena terminato uno dei romanzi più belli di sempre, ma la censura ne ha impedito la pubblicazione. Quando nel 1967, destando uno scalpore mondiale, finalmente esce nelle librerie, i lettori russi sono abbagliati e sconvolti. Sembra impossibile che un romanzo del genere possa essere stato concepito nel tetro panorama sovietico degli anni 30. Nella Russia degli anni 60, questo stranissimo libro diviene una sorta di Vangelo per i poveri e molti si accostano al cristianesimo dopo averlo letto. Bulgakov, in quanto considerato un nemico della rivoluzione, viene annientato dal regime di Stalin. Le sue straordinarie opere di drammaturgo vengono sistematicamente cancellate dai teatri di Mosca e Leningrado. Lo scrittore, tramite degli intermediari, prega Stalin di lasciarlo andare all'estero, ma il dittatore non risponde alla sua supplica. Finché il 18 aprile del 1930, con tono allusivo e minaccioso, Stalin lo chiama al telefono. Ma davvero chiede di andare all'estero? A tal punto non ne può più di noi? Ho riflettuto a lungo, chiedendomi se uno scrittore russo possa vivere fuori dalla sua patria. E credo che non possa. Dovremmo incontrarci, parlare. Sì, Iosif Vissarionovich, ho un gran bisogno di parlare. Bulgakov viene umiliato e deriso. Stalin arriva addirittura a commissionargli un'opera teatrale che elogia le sue gesta, salvo poi snobbarla e impedire che venga mai messa in scena. L'unico desiderio del drammaturgo rimane così quello del maestro del suo romanzo più celebre, innalzarsi dalla casa del dolore verso la pace di un'altra vita. Son d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci son santi né eroi. E se non ci son ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. Il 14 novembre del 1974, sul Corriere della Sera, compare questo articolo firmato da Pier Paolo Pasolini. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 74. Io so i nomi del vertice che ha manovrato dunque sia i vecchi fascisti ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi del gruppo di potenti che con l'aiuto della CIA e in secondordine dei colonnelli greci della mafia hanno prima creato, del resto miseramente fallendo, una crociata anticomunista a tamponare il 68 e in seguito, sempre con l'aiuto e per l'ispirazione della CIA, si sono ricostituiti una verginità antifascista a tamponare il disastro del referendum. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti, attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, uno che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica laddove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Il potere corrotto e totalitario considera da sempre l'intellettuale come un nemico. Ne teme le accuse dirette, come quelle che Pasolini lancia contro i governanti dell'epoca. Ma il potere, forse ancora in misura maggiore, teme le opere che l'intellettuale produce. La messa in scena, la narrazione romanzesca di avvenimenti che hanno attinenza con la realtà, è ciò che catalizza maggiormente l'attenzione del pubblico. La naturale identificazione che coglie il lettore quando legge un romanzo è il vero pericolo. Roberto, parlando con Salman, gli racconta di come il successo di Gomorra sia nato perché non si tratta di un saggio, ma di un racconto, di letteratura. E così ha raggiunto un pubblico molto più vasto, è stato letto da molta più gente. È questo che ha spaventato la camorra. Ci sono molti che hanno in qualche modo in questi anni occupato gli spettri come spettri salvifici, le mie stanze. Penso a Victor Jara, per esempio, forse lo ricorderete. Musicista cileno, mi ha sempre colpito la sua storia, perché ascoltando la sua musica tutto immagineresti fuorché di trovarti di fronte a un nemico, al primo nemico da eliminare. Augusto Pinochet, quando prende il potere in Cile, lo inserisce tra le prime persone da eliminare, quasi con ossessione. Ma non immagineresti mai un cantautore, sì, certo, amato, ma come fa a essere così pericoloso? E lì inizia a capire allora che forse non è così meccanico, cioè insulti Pinochet, attacchi il regime, oppure pensi, sogni, come aveva sognato Allende, no? La riforma della società, e quindi in quel subito ti eliminano. Non è così. Molte altre persone che si erano esposte gli fu data quantomeno la possibilità in alcuni di l'esilio, altri non li fucilarono, insomma, perché lui così? Perché lui aveva scritto una canzone, Te riguardo Amanda, che parlava di un amore tra due operai, semplice, parla di amore tra due operai, un operaio e un'operaia, che passano il tempo a sognare l'ora, anzi i minuti di riposo, per incontrarsi, basta. E poi un giorno il ragazzo non si presenta più e si lascia intendere, che è caduto, scomparso, forse deluso, non si sa. Questa è la canzone che terrorizzava il regime, perché entrava nel cuore, perché Amanda erano tutte le ragazze cilene, perché in quell'ora in cui, anzi ripeto, in quei minuti in cui loro si incontrano anche sotto la pioggia, descrive la canzone, tutti si riconoscono e quindi tutti iniziano a poter pensare, a poter capire che le storie che racconta quella persona, o il mondo che racconta quella persona, forse è anche il proprio mondo, e forse se lui vuole cambiare anche loro possono cambiare, allora è possibile trasformare le cose. L'incontro tra Salman e Roberto sta giungendo al termine. In questo pomeriggio newyorkese due intellettuali, due scrittori, stanno parlando della loro vita. Ma più la conversazione va avanti, più i due si accorgono che nel bene e nel male la loro esistenza non riguarda solo loro, perché sono diventati dei simboli. È come se la storia riempisse il suo percorso di segni, di parole che la società civile ha la possibilità di cogliere. Il fatto è che questi segni, siano essi delle storie, dei racconti di vita vera o immaginata, fanno sì che ognuno di noi possa sentirli propri e scegliere da che parte stare. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo raccontando la storia dell'incontro tra Salman Rushdie e Roberto Saviano. I due si conoscono nel 2007 in un appartamento di New York. Soprattutto per Saviano è importante fare la conoscenza di uno scrittore che ha già passato l'esperienza di una condanna a morte. Rushdie riesce a fargli capire come si può continuare a vivere e a mantenere la propria dignità di uomo libero anche in una situazione così difficile. Quello che impressiona è la straordinaria somiglianza tra gli avvenimenti che hanno occupato la vita dei due scrittori dopo la condanna. Entrambi non hanno dovuto subire soltanto la forza di un nemico dichiarato, ma anche quella più subdola e continua di alcune parti della società. Se chi ti vuole morto non riesce a eliminarti, cerca una sponda nella società civile per sporcarti, per danneggiarti, per raccontare che sei un poco di buono, un infame, che scrivi quello che scrivi perché sei un mentitore in cerca di una facile visibilità. Rushdie racconta a Roberto di come per anni abbiano sostenuto che aveva scritto i versi satanici finanziato da lobby ebraiche, che era il diavolo, un impostore, il male. Questa predicazione ha fatto proseliti. Ci sono intere aree del mondo musulmano dove Salman non può andare o dove non potrebbe mai parlare perché ormai il pregiudizio contro di lui è talmente radicato che non c'è più nulla da fare. D'altronde Rushdie sa che non può mollare. Bisogna andare avanti, continuare a scrivere, continuare a vivere. A new day, a new way, a new world. Go your way, I'll go mine. Get on. The sky. Anche Roberto Saviano ha vissuto sulla sua pelle la stessa situazione di Salman Rushdie, che dopo la fatwa per i suoi versi satanici deve combattere ogni giorno contro i pregiudizi radicati ormai in alcune parti della società. La maggior parte delle accuse non le ricevi dalle organizzazioni criminali, quelle emettono una condanna e basta. La maggior parte delle accuse le ricevi spesso dalla cosiddetta società civile, che ti accusano di essere un pagliaccio, una persona che si è messa in mostra. Una persona che se l'è andata a cercare per il successo, una persona che ha speculato su tutto questo. E sono spesso ferito anche dall'accusa di diffamare il mio paese perché racconto queste contraddizioni. Io sono fortemente convinto che raccontare invece significa resistere, che raccontare significa fare onore alla parte sana del mio paese. Roberto si è spesso chiesto se è valsa la pena sacrificare parte della propria vita per un libro. Se idealmente sei fiero di te stesso e ti senti nel giusto, devi però fare i conti con la realtà. E la realtà dice che vivi sotto scorta, che la tua famiglia ha dovuto cambiare casa e non puoi camminare libero per una strada come gli altri esseri umani. Quando ti capita di venire, di ricevere una telefonata da parte dei carabinieri che ti dicono che la tua vita cambierà per sempre, quando un pentito svela il periodo esatto della tua esecuzione, della tua morte, può sembrare strano, ma la prima sensazione non è quella che stai subendo qualcosa di ingiusto, di sbagliato. La prima sensazione è: cosa ho fatto? Inizia a odiare le tue parole. Inizia a odiare quello che hai scritto, perché quello che hai scritto magari arriverà anche lontano, ma ti ha tolto la libertà di camminare, di parlare, di vivere. E tutto questo genera una sensazione di estraneamento, cioè in qualche modo lo scrittore si sente, in questo caso parlo della mia esperienza, che le sue parole sono diventate, non sono più le sue parole, sono diventate le parole di molti, e che questo è il vero pericolo, ma a pagarne sei tu. Per fortuna, nel caso di Roberto, la voglia di continuare a vivere e ad esprimersi è rimasta intatta, soprattutto dopo quell'incontro con Salman. Molti uomini, costretti a uno stato simile alla prigionia, riescono a trovare dentro di sé delle forze fino ad allora insospettabili. Lo spirito di sopravvivenza prevale. Dostoevsky, che per le sue idee politiche viene rinchiuso per 6 anni nelle prigioni siberiane dai tribunali dello zar, scrive Memorie della casa dei morti, un romanzo che racconta di quel periodo della sua vita. E quelle parole sono le parole di tutti quelli che sono in quella situazione. Forse si mettono a un uomo i ferri ai piedi solo perché non fugga, o ciò gli impedisca di correre? Niente affatto. I ferri non sono altro che un ludibrio, una vergogna e un peso fisico e morale. Così almeno si presuppone. Essi non potranno mai ad alcun modo impedire di fuggire. Il più inesperto, il meno abile dei detenuti saprà ben presto, senza gran fatica, segarli o farne saltare la ribaditura con un sasso. Per quanto si subiscano vessazioni, umiliazioni, di fronte alla possibilità della morte, si trova la voglia di andare avanti comunque. Lo stesso Dostoevsky, in un passo di Delitto e Castigo, racconta del pensiero di un condannato a morte, della sua disperata necessità di vivere ancora. Dove mai ho letto che un condannato a morte, un'ora prima di morire, diceva o pensava che se gli fosse toccato vivere in qualche luogo altissimo, su uno scoglio o su uno spiazzo così stretto da poterci posare soltanto i 2 piedi, avendo intorno a sé dei precipizi, l'oceano, la tenebra eterna, un'eterna solitudine e un'eterna tempesta, e rimanersene così, in un metro quadrato di spazio, tutta la vita, un migliaio d'anni, l'eternità. Anche allora avrebbe preferito vivere che morir subito, pur di vivere, vivere, vivere, vivere in qualunque modo, ma vivere. Quale verità! Dio, che verità! È un vigliacco l'uomo, ed è un vigliacco chi per questo lo chiama vigliacco. Salman sprona Roberto. Gli dice che la libertà sta nella sua testa. Gli racconta di come certe volte ha chiesto di presentare un libro o di andare a una conferenza, ma non lo hanno autorizzato, dicendo che era troppo rischioso. Ma se Rushdie sente che si può fare, allora combatte come un leone finché non ottiene di poterci andare. Per lui è stato fondamentale riappropriarsi della sua capacità di giudicare cosa si può fare e cosa no, del suo fiuto, della sua sensibilità, perché non si può appaltare tutta la propria vita ai poliziotti. Roberto sorride. Le parole di Salman gli fanno intravedere un futuro diverso. Rushdie lo nota. Fa un piccolo passo indietro perché sa quanto, per gente come loro, la febbre della libertà possa diventare pericolosa, senza controllo. Spiega a Roberto che non lo sta invitando a fare cose imprudenti o avventate. Non gli sta dicendo di andare a mettersi davanti a una pistola, ma di recuperare una libertà di giudizio. Salman l'ha recuperata andando a vivere negli Stati Uniti. Ricorda le prime volte a New York. Scendeva da solo in metropolitana, camminava nel parco, andava a un museo. Poi tornava a Londra e aveva l'auto blindata, 8 uomini di scorta e gli mancava l'aria. Gli uomini della scorta di Roberto gli fanno un cenno. È ora di andare. Saviano stringe la mano a Rushdie. È una stretta piena di ringraziamenti e di significati. Rushdie dice che lo accompagnerà giù in strada, alla macchina. Con un mezzo sorriso, gli chiede l'onore di scortarlo fino all'auto. Roberto apre la portiera ed entra. Anche gli uomini della scorta salgono. Salman guarda il giovane amico e gli dice un'ultima cosa. Roberto, abbi cura di te, sii prudente, ma riprenditi la tua vita e ricordati che la libertà è nella tua testa. I due si scambiano un ultimo sguardo e l'auto dell'FBI si immette con prudenza nel flusso del traffico di New York. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.